Container. L'approfondimento settimanale su autotrasporto e mobilità di Massimo De Donato. Dalla lotta al dumping sociale all'armonizzazione delle regole, dalla ridefinizione delle responsabilità nella filiera dei trasporti alla ripresa del dialogo con le altre associazioni di categoria. Sono questi i principali punti del mandato di Patrizio Ricci, il nuovo presidente di CNA FITA, eletto in questi giorni. Con un invito alla collaborazione e alla coesione, Ricci ha ricordato la necessità di inaugurare una nuova fase mettendo al centro le imprese. Per fare questo bisognerà affrontare temi specifici, come quello delle accise o della legge di bilancio, e concentrarsi anche sulle nuove norme per l'autotrasporto proposte nei mesi scorsi dalla Commissione europea. Tutte questioni cruciali per questo settore. Salve a tutti, da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Container, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dei trasporti e della logistica. Il mondo dell'autotrasporto si prepara a vivere una stagione di profonde trasformazioni. Il nuovo pacchetto di misure europee ne modificherà alcuni aspetti importanti, come ad esempio le regole per le imprese estere che vogliono operare negli altri paesi, tra cui ovviamente anche l'Italia, oppure i controlli sui veicoli, sulle merci, ma anche sugli stessi autisti. Uno scenario di cui parliamo oggi in compagnia del nostro ospite, Patrizio Ricci, da qualche giorno neopresidente di FITA CNA, che è una delle principali associazioni di categoria del settore. Buon pomeriggio e grazie per essere con noi. Buon pomeriggio. Allora, lotta al dumping sociale e armonizzazione delle regole, questo è un po' il filo conduttore della nuova azione europea voluta dal commissario europeo ai trasporti, ma è anche un po' uno dei punti fondamentali del suo programma. Sì, noi non possiamo subire la concorrenza fatta solo perché qualcuno riesce a sfruttare normative europee che permettono stipendi diversi in nazioni diverse. Per fortuna attorno a noi nazioni come Francia, come Germania, come Austria hanno messo dei paletti vietando un po' per esempio il riposo settimanale delle 45 ore sui camion, perciò obbligandoli ad andare a casa o comunque effettuare il riposo presso un albergo o da qualche parte. In Italia questo non succede, lo vogliamo. Quello che però vogliamo è che l'armonizzazione degli stipendi sia fatta anche qui. Non possiamo perdere fette di mercato come le abbiamo perse solo perché qualcuno gioca sullo stipendio dei propri dipendenti. Ecco, c'è anche da ridefinire, leggo ancora dal suo programma, le responsabilità nella filiera dei trasporti. Cosa significa? Io vorrei fare un esempio. Noi non produciamo niente, noi offriamo solo un servizio, che è il servizio dell'autotrasporto. Chi produce dovrebbe considerare questo comunque all'interno della propria filiera. Cosa voglio dire? Se acquisti un orologio in un negozio e questo orologio non funziona, tu lo riporti in negozio, ma la casa che l'ha prodotto te lo ripara. Se uno di noi che dopo aver constatato che non in regola, fuori con le ore, fuori con i pesi, poi tutto quello che ci viene dietro, combina qualcosa sulla strada, perciò stiamo parlando poi di un costo sociale, questo non può essere caricato solo all'autotrasportatore. Io continuo a credere che ci deve essere qualcuno che vigila su queste cose e non può essere tutto sempre solo demandato alla polizia, alle polizie locali, ma deve essere una mentalità, comunque qualcosa che viene naturale e chi comunque dà in affidamento un viaggio si senta responsabile anche poi di questo tipo di costi. Sin dall'inizio. Lei ha lanciato un po' un tema che è un tema centrale, lo è oggi ma lo sarà sempre più in futuro, che è quello dei controlli. In questo momento controlli affidati alle forze di polizia, tra l'altro abbiamo proprio dato qualche giorno fa qualche numero sugli ultimi controlli che sono aumentati negli ultimi mesi appunto, ma come bisognerebbe migliorare questi controlli? Lei diceva non dobbiamo solo demandare la polizia ma anche altri organi. Sì, noi dobbiamo considerare che chi fa autotrasporto si trova sulla strada, è in giro, alcune volte è difficilmente localizzabile. Dobbiamo comunque pensare che la filiera del trasporto è una filiera importantissima. Bisogna cominciare ad andare presso le aziende. Le aziende sappiamo dove sono, le aziende si possono controllare lì, le aziende che lavorano in una certa maniera non hanno difficoltà a dimostrare che sono nella regolarità, ma proprio per questo devono essere premiate, premiate dal mercato, premiate da chi gli dà il lavoro, di chi gli dà i viaggi, e perciò non ritornare al ragionamento che abbiamo fatto prima, darlo a chi vede solo nel più basso costo lo scopo finale, anche perché abbiamo comunque visto che la merce che viene trasportata non è che poi all'utente finale viene fatto uno sconto perché l'ha trasportato qualcuno che è costato meno. Il modello di rappresentanza in questo momento del mondo dell'autotrasporto, un modello molto variegato, molto ampio, molto differenziato, probabilmente c'è bisogno di una sempre maggiore coesione di questo modello per portare avanti dei progetti comuni. Noi siamo in Unatras e lo siamo da parecchi anni, credo che questa sia un'esperienza che va rivitalizzata, non ce n'è, quella è la casa dove ci stanno tutte le associazioni, chi con più peso, chi con meno peso, comunque quella è la casa dove noi riusciamo ad esprimere poi i nostri concetti. La rappresentanza deve essere però una rappresentanza seria, io continuo a dire che non rappresento gli autotrasportatori e qualcuno la pensa come una bestemmia. Io rappresento gli autotrasportatori che sono associati a FITA CNA, perché è questo che io faccio. Poi insieme ad altri che sono le altre associazioni, all'interno comunque di Unatras, ci posizioniamo in maniera più forte verso il Ministero, verso tutte comunque quelle strutture che poi fanno parte di questo mondo. CNA è una delle grandi centrali artigiane e che quindi rappresenta un mondo che è quello che una volta si diceva dei padroncini, cioè delle piccole realtà, della piccola e media impresa che poi è quella che ha costruito tutto il tessuto produttivo italiano. È un modello ancora vincente o dobbiamo spingere sempre di più verso forme di collaborazione, di cooperazione di rete? Vero. Bisogna comunque spingere verso cooperazioni, verso. Però io continuo a credere che la risposta del mondo dell'autotrasporto è la risposta del mercato. Il mondo, il monoveicolare, segue le aziende che hanno bisogno di quel tipo di risposta. Noi vediamo grandi aziende di produzione, sto parlando, con grandi aziende di autotrasporto. Perciò finché il mondo, noi siamo solo la risposta di quello che è il mercato, finché il mondo dell'impresa in Italia sarà fatto di piccole e medie imprese, ci sarà una risposta dal mondo dell'autotrasporto di piccole e medie imprese. Diventare grandi tante volte non è la soluzione, perché comunque abbiamo visto che in alcune aziende servono risposte diverse. Non è assolutamente vero che bisogna diventare grandi, e l'ha dimostrato anche quello che abbiamo subito con l'ultima crisi. Presidente Ricci, siamo in chiusura, ancora una battuta velocissima, lei è stato eletto da pochi giorni, probabilmente studierà appunto questo mese di agosto, quali saranno le prime iniziative a partire dall'autunno che coinvolgeranno FITA CNA? Beh, sicuramente il dialogo verso gli altri, per quanto riguarda noi il dialogo all'interno della nostra associazione. Dobbiamo essere presenti, io continuo a credere, da dove c'è un divieto al Ministero e in mezzo ci sta tutto. Abbiamo aziende monoveicolari, abbiamo aziende e consorzi che fanno numero, abbiamo aziende strutturate con più. Noi dobbiamo dare risposte ai nostri associati, questo deve fare un'associazione. Bene, termina qui anche questa puntata di Container. Prima di lasciarci vi ricordo che questa è una produzione realizzata in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Comitato Centrale dell'Albo degli Autotrasportatori. E vi ricordo anche il nostro indirizzo email, che è container@radio24.it. La nostra trasmissione ritorna come al solito sabato alle 13:15 circa. Un saluto a tutti da Massimo De Donato. In collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.